Tu e Parenzo sembrate a volte i deregi evoluti. Avete un enorme sarchiappone lì come Walter Chiari, ma non si sa che cosa minchia c'è dentro. Allora, cioè, perché sei così? Perché sono uno stronzo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Caro Parenzo, c'è chi non si arrende, c'è chi vorrebbe vedere Berlusconi ai ceppi, Berlusconi arrestato, Berlusconi in galera, per esempio Massimo D'Alema, il quale ieri sera Porta a Porta cosa dice? Che in carcere, in questo in parte ha anche ragione, in carcere ci vanno i poveracci, cioè vuol dire sostanzialmente siccome Berlusconi è ricco l'ha scampata, se fosse uno qualunque sarebbe già in galera per frode fiscale. Massimo D'Alema. Come dargli torto? Certo, viene da pensare che cittadini meno fortunati, cioè meno ricchi, meno potenti, per reati molto minori vanno semplicemente in prigione, diciamo. Punto e basta. Tu che la giustizia ci hai sempre creduto, allora tu andrai in prigione, in prigione, in prigione, sì, proprio tu in prigione, e che ti serva da lezione. Anche Vendola, anche Vendola dice la legge è dura solo verso i poveri cristi. Oh, si risente Vendola, è tornato il presidente della Puglia. E spero non che si infligga Berlusconi una pena più severa, spero che si rifletta di più su come funziona la giustizia, perché la legge è uguale per tutti, ma non è vero che tutti sono uguali di fronte alla legge. E questo dovrebbe indurre, diciamo così, una riflessione sul fatto che la dura legge si esercita soltanto nei confronti dei poveri cristi. Lo sai che ogni tanto quando lo sento mi sembra sempre la sua imitazione, cioè non mi sembra vero in realtà. Mercuti sembra. Cioè mi sembra Mercuti. Sempre Andro, cioè mi sembra continuamente Andro, cioè ogni volta che lo sento è incredibile. Ma sarà lui che ha detto questa cosa, questa che oggettivamente è una banalità, perché diciamo la verità, che chi ha più mezzi per difendersi si difenda meglio, non è che ci vuole il genio, no, non ci vuole un genio. Sarà una banalità, però voglio dire. Sì, ma diciamo la verità, ma che cosa significa questa roba? Questo ci ho ripensato anche sulla cosa di D'Alema in realtà. Cioè, se uno è più ricco, significa che si può pagare avvocati più forti, probabilmente anche avvocati più bravi. Non è solo questione di avvocati. Ma sì, dai, è così alla fine. Comunque, anche comunque di ruolo, perché i giudici hanno voluto infliggergli una pena simbolica, simbolica, dici tu. Simbolica. Beh, forse, ma giusta. Probabilmente anche giustamente, visto che è il leader dell'opposizione, capito? Ma che c'entra che è il leader dell'opposizione? Allora, Luttuak. Probabilmente, viste le minacce. Vabbè, insomma, Luttuak, Edward Luttuak. Io me lo voglio sempre ricordare. Quando dice. No, mi ricordo sempre del professore Luttuak. Sempre. È sempre nei miei pensieri, professor Luttuak. Quello che dice che bisogna tagliare il finanziamento, i dipendenti pubblici. Tanti dipendenti pubblici da tagliare. With bombs, sì, contro i sindacati, eccetera. CGL, CISL, esatto. In questo caso, voglio ricordare quello che ci ha detto, su Berlusconi in un altro paese sarebbe in galera. Questo è vero, non c'è niente da fare, dai, su. Che un dillo. Questo è vero, liberale, no, questo no, è vero, credo. È vero. Sei non c'entra niente, tu. Non c'entrano niente i poveri, i ricchi, eccetera. In America, Berlusconi, frode fiscale. Minimo 5 anni di prigione nella cellula e viene arrestato dopo il processo. Gli danno il tempo per mettere le cose a posto e lui sarebbe in prigione per 5 anni. Oh, mi è venuto in mente Tognazzi, Ciao Gianmarco, ti abbraccio se ci stai ascoltando. Grande Gianmarco, ti abbraccio. Se ci stai ascoltando, eccoci qui. Tuo padre mi è venuto in mente, amici miei, atto terzo. Ti ricordi quando stanno in un centro anziani? Numero uno, certo. Litigano per il telecomando. No, ma anche la scena. No, no, perché? Perché? No! Ma mi dia! C'è un programma apposta per noi sulla terza età che tratta dei nostri problemi sociali e umani e noi ce lo vogliamo perdere? Tele terza età vi augura buongiorno. Per gli arteriosclerotici, ripeto, buongiorno. I nostri programmi avranno inizio con un breve spazio di pubblicità. Il tempo passa inesorabile. Nel vostro letto riposate solo alcune notti. Nella bara riposerete per l'eternità. Ma che ci fanno? Deve essere una rete nuova, io l'ho mai vista. Cambiamo canale. Zitti! Voi cari, preferite le nostre bare con imbottitura a prova di sonno eterno. Io ti fo le corna, menagramo! Ricordate, impresa fratelli buonanima, via del Purgatorio 17. Interessante, ha preso l'indirizzo. Non so cosa possa accadere dentro la clinica di Cesano Boscone, però senti qualche voce presa di fronte all'istituto dove Berlusconi andrà a partire, credo, dall'inizio di maggio, alla fine di aprile, immagino da maggio, ancora c'è qualche giorno. Voci. Viene Berlusconi qua. No, per l'amor di Dio. Per dare una mano. A che cosa? A chi? È meglio che se la dia lui la mano, mi sembra che sia dentro fino qua, no? Se fa le cose grandi può fare anche le cose umili, o no? Pulire il giardino, pulire i gabinetti o altre cose. Potrebbe essere utile. Ah beh, se lo fa sì. Se non lo sa fare lo si può imparare. C'è qualcosa che si può imparare qui? Imparare a stare a vedere gli altri, a fare quello che vogliono gli altri, che hanno bisogno gli altri, anziché quello che vogliamo far fare gli altri. Il Padre Eterno quando fece il mondo lo disegnò quadretto, però gli venne tondo. E poi sbagliò dell'uomo il modellino. Il primo venne dritto, ma l'altro un po' cretino. Se tu sei cretino non sei solo tu. Noi abbiamo avuto un cretino che dobbiamo identificare e che va sanzionato perché ha pigliato a calcio una ragazza che stava per terra. Questo è il capo della polizia, il capo della polizia. Abbiamo avuto un cretino che dobbiamo identificare, che ha preso a calcio una ragazza per terra. A parte che vorrei correggere, sì Parenzo, vorrei correggere il capo della polizia, perché no, non ha preso a calcio Luciani che corregge, sì, il capo, sì, della polizia, esatto. È come Ruggero che corregge il Papa, il nostro amico Maurizio Ruggero. No, uguale, adesso non mi paragonare a Maurizio Ruggero, scusami, non mi paragonare. Non c'è dubbio. Non mi paragonare a Maurizio Ruggero. Tradizionalista, il signore del sacrum impero. Allora no, non ha preso corregge, a calci nessuno quel poliziotto, non ha preso a calci nessuno. Luciani corregge il questore. No, il capo della polizia, il capo della polizia. Sì, appunto, ancora più alto, ancora più su. Però io ti vorrei far notare, a proposito degli scontri di Roma di sabato scorso, e Panza che dice che è un cretino, questo che si è costituito, chiamiamo così, diciamo, si è identificato, ha detto di essere lui, eccetera, eccetera, e che pensava di pestare uno zaino mentre guardava se arrivavano delle Molotov, ti vorrei ricordare quello che ci ha detto il signor Coltelli, nome omen qualche volta, Andrea Coltelli, quel ragazzo toscano che ha coperto, sì, presentato come un eroe, no? Presentato come un eroe da tutti perché ha coperto la ragazza che veniva pestata dal poliziotto. Il quale dice, ragazza, sì, sì, dice di non aver fatto nulla, che lui era un angioletto lì che scappava dai cattivi poliziotti che lo bastonavano, il signor Coltelli. Oggi ci sono delle immagini sul web leggermente diverse, però poi vedremo, capiremo. Però oggi c'è un altro episodio che riguarda, aspetta, la polizia. Aspetta, sì, altre immagini. Coltelli, eh no, che aspetta la notizia, aspetta, di oggi, aspetta, devi darla, sennò aspetta, sei capzioso, mamma cattivo, mia, guarda, io non ne posso più con te, cattivo, Coltelli, che dice la violenza l'ho vista cattivo solo dai poliziotti. Devo pensare a scappare dalla polizia che era in ferocita. Io la violenza l'ho vista lì, l'ho vista nei poliziotti che manganellavano la gente a terra, quel poliziotto che ha pestato Deborah. L'ho vista lì la violenza. Il Padre Eterno. Poi parla di poliziotti come degli animali. Dice: non ho tirato niente, non avevo niente in mano. Ma scusi, le bombe carta. Dove stanno le bombe carta? Non le ho viste. Ma ce ne scoppiavano dappertutto, io non ho visto, non ma ho sentito niente. Ma non è che tutti lanciavano bombe, ma chi sei diventato? Oh. Non lo so, sai, vuoi andare a lavorare per la polizia di Putin? Non ho capito, che devi fare? Posso segnalarti una cosa? No, io non sono, mi devi segnalare niente, devi stare zitto. Ma mi arrivano notizie, dimmi. Mi arrivano notizie. Dimmi. Questo è da chiamare. Il signor Ciocca della Lega Nord si è presentato poco fa al numero di cellulare davanti al Consiglio regionale della Lombardia Lombardia con un asino. Perché? Con un asino. Perché? Contro Renzi, ve lo segnala l'amico Poletti, Roberto Poletti. Ma che c'entra l'asino? Scusa, che numero. Ce ne frega dell'asino? Ma te... vabbè, no, ma che ce ne frega? Lega, vabbè, Nord, si è presentato è con un asino. È andato con un asino davanti al Consiglio regionale della Lombardia, signor Ciocca. Vabbè. Ma cosa fa con l'asino? Ti si sente davanti male, a parlare... non ti mettere accanto ai microfoni, mamma mia. Ciocca. No, io non ho tirato assolutamente niente, poliziotti. Non c'è neanche un video che lo fa vedere. No, ma dico anche che non è possibile che ci sia perché non ho tirato niente, assolutamente niente. Vieni avanti frescore. Intanto vanno ai domiciliari quattro manifestanti arrestati. Evviva! Viva la libertà! Diritto di devastazione! Devastate tutte le città, ma che ce frega? No, ma devastate tutto! Sì. Devastate. Io vorrei ricordarti l'ascoltatore intervenuto. Vuoi dire anche qualcosa sul filmato di oggi della polizia? Senti, abbiamo una trasmissione da fare, gli ospiti, eccetera, eccetera. Mi vuoi far mandare l'ascoltatore di ieri, Riccardo, che è stato il numero uno assoluto? Fammi sentire Riccardo, per favore. Ma dai le notizie, però, almeno. Ma io le do quando mi pare notizie, se voglio le do, se voglio. No, sei fazioso! Devi dire la notizia di oggi. Non me ne frega niente. A casa. Mamma mia, secche di merda, avete distrutto questo paese dal 68 e poi con questa propaganda idiota. Dateci il lavoro, diritto allo studio, diritto alla casa. Sì, mo vediamo tutto, non vedo, ma vaffanculo, ve le dovete meritare le cose, meritare. Beh, questo è il top, eh. È con noi in collegamento da una, non la chiamo casa di cura, la chiamo da un centro benessere, Marina Ripa di Meana, un mito, una leggenda. Buonasera. Buonasera, buonasera. Ho sentito quello di tutto. Di tutto, di tutto, di più. Di più. Cara Marina, io ieri sera, dove si trova innanzitutto? Io mi trovo all'Hotel Europa di Abano Terme, luogo dove vengo a fare un po' di riposo. Ah. Abano Terme. Abano Terme. Dove vengo spesso, ogni tanto. Abano Terme. Abano Terme è un posto da morti. Molto, molto piacevole, sì. Un posto da persone anziane come sono io. Ma da morti, ma pure da morti di fame. Abano Terme. Abano Terme è un posto da pensionati, proprio. Da pensionati, no, giustamente, da persone che si vogliono riposare, fare dei fanghi, sì. Fare una dieta, fare insomma. Un ma lavoro... quanto paga per una settimana? Quanto sta una settimana? Ma sì, sto una settimana, ma non entriamo in dettagli. Ma come così. No? I dettagli a noi interessano, sono quelli che interessano. No, non lo so, quanto tra l'altro sono anche invitata. Sono a scrocco in pratica. Andiamo su, diciamola tutta, a scrocco, siamo a Marina di Vedere. Anche se fosse così, ma figuriamo. Non usiamo questo termine, invitata deve essere per forza scrocco, uno è invitato. A rimorchio di qualcuno, a sgraffignare la settimanella, dai su, e dai. E beh, insomma, perché non me la... Non ci si può riposare, a me la... che sia giusto, ma certo, a un certo però, punto, scusi, dopo un inverno di fatiche. Ma quali fatiche? Ma quali fatiche? Che la vedo sempre in palestra a Prati. Quali fatiche, amica ecco, mia? Quali quelle fatiche? Sono giustamente fatiche. Ma dai, su. La vedo lì sempre nella palestra di Prati, bellissima. Cioè, tra televisione, comparsate in televisione che sembra un prezzemolino, palestra di Prati, interviste. Ma fate un po' voi, adesso che cosa vi dovete fare? Le pulci su quello che faccio, sono qui a riposarmi, ad Abano Terme, Hotel Europa, l'uomo. Ma a riposarsi da che cosa? Dove si sta benissimo. Ma i massaggi, scusi. I messaggi come sono? Riposarsi da che cosa? Dalle brutture dell'Italia di questi giorni, di questo periodo. Ma lei non fa niente tutto il giorno, non ci si può riposare quando non si fa nulla. Io faccio, io subisco un'Italia deteriorata, già questo non mi basta. Ma cosa dice? Ma come? Subisco mi arrabbio, te lo giuro. Te lo giuro che mi incazzo. Tutte deteriorate, già questo è vivo di ricordi di un'Italia diversa. Già questo mi affatica molto. Ma perché l'Italia è deteriorata, scusa, dal suo punto di vista? Perché no, scusa, è deteriorata? Già, analizziamo la situazione. Beh, non lo so, l'altro giorno mi sono trovata, sentivo la vostra trasmissione, mi sono trovata in mezzo completamente nella bagarre della polizia, delle bombe, di tutta quella roba lì. E ora a Piazza Barberini, lì mi sono trovata in mezzo, potete immaginare. Ma fanno schifo sti, ma- di, sti manifestanti. Tutto, sti manifest- ho visto di tutto e di più, e francamente è un'Italia che non dà più tanta molta speranza. Non dà speranza, no, certo. No, uno si può fare i massaggi perché l'Italia non dà speranza? Ma di che parliamo, detto, signora Marina Ripa e anche di Meana? Ma chi ha detto che io faccio solo i massaggi? E che fa? Aspetta, che fa? Faccio anche la pulizia del viso, faccio anche delle belle messe in pieghe. Vi rode a voi? Beh, un vi po' rode? Sì, devo dire la verità, un po' a sì. Rode, le spiego rode. Perché fra poco dopo il traffico. Faziosissimi perché... come siete, faziosi. Ma faziosi con chi? Come? Quando? Perché? Con questo concetto della vita che uno non si può fare una settimana di vacanza. No, lei un po' deve soffrire, un po' dovrebbe soffrire. Ma un po'. Soffro tantissimo di avere un paese ridotto come ridotto ai minimi termini. Beh, certo, perché lei soffre molto. Posso vengo su qui in Alta Italia dove già si sta meglio. Ad Abbano Terme. Capito? Ad Abbano Terme. Chi ce l'hanno con me? Non sono mica una mosca. Ottima trasmissione, sempre la migliore. Questo era Alberto Dell'Utri. Alberto Dell'Utri, fratello gemello di Marcello. Forza Marcello, eh! Sempre la migliore. Forza Marcello, dai, non torniamo in Italia, eh! Fosse in Dell'Utri, cara signora Ripa di Meana, lei tornerebbe in Italia? Non ci penserei neanche. Beh, certo, resterebbe lì in Libano proprio alla grande. Ma, mi pare ovvio, perché dovrebbe tornare? Cioè, lei sarebbe scappata pur di non fare 7 anni per una condanna? Io non lo so se quella condanna è giusta o meno, comunque 7 anni sono tanti, ecco, uno fa di tutto. Guarda, per non farseli. Marina potendo, Ripa di Meana potendo. È... potendo, certo, potendo. Marina Ripa di Meana non potrebbe mai essere mafiosa, troppa fatica ci vuole, figurati. In che senso? Sì, questo è vero, una fatica. Hai proprio ragione, chi l'ha detto, una mafiosa non lo potrei mai essere perché fatiche che mai. Non potrei mai subire. Però mai, effettivamente mai. Se per caso fossi coinvolta in una situazione simile, sì. Effettivamente, non so, ecco, ma uno anni... che non fa nulla tutto il giorno, scusi, uno che non fa nulla tutto il giorno. Ma chi gliel'ha detto che non faccio nulla? Che cosa vuol dire non far nulla? Zappare la terra? Nulla. Nel senso non zappo la terra, non pulisco i pavimenti. Lei non fa, niente, cose dai. Non le faccio, ma a tante altre cosette magari nella mia vita forse... Le ho fatte, non le faccio, se mi meriterei una giusta pensione, visto che ho raggiunto anche una certa età. Pure la pensione. Ce l'ho la pensione, in effetti. Che pensione ha? Di quasi 800 euro al mese. E chi gliela dà sta pensione da 800 euro? Beh, io ho fatto la moda tanti anni e sono una stilista e ricevo una i contributi da stilista. Senta, ma chi è che glieli fa i massaggi? Qualche giovincello, qualche toy boy? Le piacerebbe saperlo, ma non glielo dirò mai. No, ma in realtà glieli farei io volentieri i messaggi. Ieri ho conosciuto una ragazza romena di 43 anni in un bar qui a Milano. 41 anni, molto bella, ha fatto la modella tanti anni. La quale è perdutamente innamorata di un ragazzo di 20 anni, di 24 anni. No, di un ragazzo di 24 anni che non ha nessuna qualità, dice, però è perdutamente innamorata. Io in realtà sono al contrario, cioè mi piacciono quelle di 20 anni di più, ha capito? Io pure sono sempre stato un po' gerontofola, difatti ho sempre avuto compagni di età superiore alla mia. Ma glieli posso fare? Però potrei effettivamente cambiare idea, sai, non si può mai sapere nella vita e mai dire mai. Ma se lo farebbe fare un massaggio da me, eh? Ma io non la conosco, non ce l'ho ben presente. Chi è lei? Sono signor Cruciani. Sono Cruciani. Ah, sì. Ah, ciao, allora sì, certo. Subito. mi mette in imbarazzo adesso. Pensavo io che dicesse. Perché glielo chiedo? Guarda. Perché non glielo? No, tu che c'entri? Parenzo, no. Parenzo è fuori gioco. Perché un massaggio ma ti pare che bisogna saperli fare, ragazzi. Non vabbè, è un'arte molto precisa. No. Senta, non sappiamo. Senta, la questione del fuggire dall'Italia, no? Berlusconi dovrebbe. Perché non ha fatto come Craxi? Credo che quello di Craxi di fuggire dall'Italia è stato uno il grande sbaglio della sua vita. Probabilmente Bettino, se non fosse fuggito, sarebbe ancora vivo. È stata la grande stupidaggine, cazzata dalla sua vita. Sì. Perché Berlusconi la doveva ripetere vedendo il risultato? Non lo so. Vabbè, magari aveva più possibilità ai Caraibi, mica doveva andare in Tunisia in mezzo ai beduini. Non lo so, non era un esempio certo quello da inseguire, quello di Bettino. Ma come se lo immagina i servizi sociali Berlusconi? Sarei molto curiosa di vederlo, ma comunque ci darà delle grandissime sorprese. Cioè? Farà campagna elettorale in mezzo agli anziani. Farà campagna elettorale e poi risusciterà tutti i vecchietti di quel luogo. gioco. In che modo, scusi, in che modo? Beh, ma ci sarà una botta d'allegria, di energia, di chi si immagina di quello che si inventerà. Beh, non lo so, quattro ore a settimana. Vorrei, eh? Ma non è uno scandalo, Ripa di Meana, il fatto che alla fine, come titolo oggi Repubblica, sette giorni alla fine, questo reato di frode fiscale, Berlusconi lo pagherà in sette giorni. Lei non pensa in che sia uno scandalo? Giorni. Sì, sette giorni totali. Dipende, bisogna vedere quanto effettivamente Berlusconi si meritasse questa... Vabbè, secondo lei questa... frode fiscale non è un gran reato, poi diciamo la verità. Lo fanno tutti in Italia. Beh, ne abbiamo visti di tanti fare frode fiscale e non aver avuto pene di questo genere. Insomma, io non mi esento dal dare dei giudizi. Come si esente? Certo, non do dei giudizi, di certo posso dire che sarà un divertimento vedere quello che si combinerà, di certo risusciterà lì i morti. Capito, Parenzo? Comunque, secondo me la signora Ripa di Meana ha un toy boy là, Qui, E la vedo in questo periodo, anche ha fatto un piccolo spogliarello, l'ho vista con qualche foto da qualche parte. Ma ha visto con quello, non era uno spogliarello, era imitare quella fotografia di Catherine Deneuve che si è mostrata alla stessa età con una gappiere, e io ho detto anch'io posso fare la même chose. Mamma mia, siamo all'esalto. È un po' troppo, mi sembra, Catherine Deneuve. È troppo, ma io oso, mi piace osare. Dica qualcosa a Berlusconi in attesa di questi servizi sociali, lei che è così, che lo conosce insieme a suo marito da tanto tempo, Berlusconi in qualche modo, no, non è nemmeno così ostile a Berlusconi. Come... No, perché essere ostile? È una persona comunque che c'ha di certo, con tutti i suoi difetti, le sue cose, e comunque è l'unico uomo italiano che c'ha delle marce in più nella politica italiana, è l'unico uomo della politica italiana che c'ha qualche marcia in più, il resto io vedo tutto un... Comprimari, diciamo la verità. Mezze calzette. Una personalità, può piacere o non piacere, è una grossa personalità e ci darà ancora delle grandi sorprese. A presto, buoni massaggi. Non c'è niente da fare tutto il giorno, va a massaggi. Ormai è tutto degradato ormai. Non vi abbandonerò mai. Spettacolare. Questa volta non deve finire come nel 45, scrive Grillo, dopo la frana del fascismo. La pulizia dovrà essere completa, radicale, senza sconti. Nessun compromesso, nessuna riabilitazione. A giudizio dovrà andare l'intera classe politica, imprenditoriale dell'informazione. Fuori, dopo la frana, ci saranno cieli nuovi e stelle luminose. Gli italiani non sono finiti qui. Si libereranno di questo sudario che li avvolge, che ne ha distrutto l'anima e la storia. Non sentite la frana? Sta venendo giù tutto. Uscirete presto a rivedere le stelle. I vostri occhi sono stati creati per questo. Giornalisti, ma non vi fate schifo? Dopo la frana cosa farete? Vi cercherete nuovi padroni? Continuerete il vostro mestiere di servi? L'Italia frana senza scampo, senza interruzione, disoccupazione, migrazione, chiusura del tessuto produttivo nazionale, distruzione della moralità pubblica, a gambe aperte a qualunque interferenza straniera. Tra un anno di Berlusconi rimarrà il ricordo, di Napolitano neppure quello, Renzi sarà ricordato come uno zimbello, come il dito inserito in un buco della diga. Prima della crepa definitiva si apriranno finalmente processi come MPS e i nomi della trattativa Stato-mafia saranno espulsi dalle istituzioni. Allora io dico una cosa, caro Parenzo, va bene tutto, ma io sta frana non la voglio, francamente. Io voglio una bella rivoluzione, sì, non quelle che ci propone Renzi, cioè rivoluzioncine, cioè piccolissimi cambiamenti che non saranno nemmeno tali, però una bella rivoluzione la vorrei. Per esempio, no? Per esempio, Grillo è una rivoluzione? Quelle erano le parole di Grillo. Ma non si capisce che cosa significa poi mettere sotto processo l'intera classe imprenditoriale. Che cosa immagina Grillo? Dei processi pubblici con delle impiccagioni? Che cosa immagina il signor Grillo? Grillo, se fosse vissuto all'epoca della ghigliottina, sì. Sarebbe stato quello che accompagnava non solo il boia che fa cadere la lama, ma proprio quello che porta il condannato sulla ghigliottina, gli mette la cuffia sulla testa, anzi senza la cuffia sulla testa, e gli fa tagliare la testa. Quello sarebbe stato. Io credo che Grillo abbia altri due giornalisti con cui prendersela, perché sentite cosa pensano di Grillo. Primo, una giornalista del Corriere della Sera che si chiama Maria Teresa Meli. Maria Teresa Meli, sì, oggi ha l'aria che tira. Brava. Sì, però dà a Grillo del, cosa dice, il cialtrone. Oh, poco, troppo poco ha detto. Mi sia consentito di non parlare di quell'antisemita di Grillo, perché cioè veramente mi viene un conato a parlare di Grillo dopo quello che ha fatto, dopo quello che ha detto, dopo quello che ha ridetto. Forse, cioè, io non riesco, perché non riesco a essere obiettiva di fronte a un cialtrone simile che tratta per lui l'olocausto e come le sue barzellette, le barzellette che fa, che dice in giro nei suoi comizi. Io, consentitemi di non parlare di Grillo. Corriere della Sera, Maria Teresa Meli, antisemita, conato di vomito. Che c'entra? Sto dicendo chi ha pronunciato queste parole, non sto dicendo niente. Io so, non sono d'accordo, però antisemita, antisemita, conato di vomito e cialtrone. Antisemita, sì, conato di vomito e cialtrone. Cioè, adesso Grillo è diventato, per una cosa che ha fatto sul blog che riguarda Auschwitz, è diventato antisemita, conato di vomito e cialtrone. Adesso francamente mi sembra troppo, con tutti i ladri di stato che ci sono, con tutti i parassiti che ci sono in giro. Ma non è tutto uguale, però non è che si può fare un unico pentolone. Sì, ma questo viene sempre da alcuni personaggi del giornalismo. Non dico ma chi vuol dire alcuni personaggi? Non dico la Meli, ma per esempio Paolo Grandi si esprime un giudizio. Ma che è un giudizio? Ma se lo dici tu di qualcun altro ti mettono in galera. È come metterebbero in galera Grillo per quello che dice. Non si può dare del cialtrone. Antisemita, conato di vomito e cialtrone. Ma va benissimo. Sicuro. Con altri sentiamo Paolo Graldi, un altro giorno, giornalista, certo. Un giornalista di quelli, diciamo, storici, Paolo Graldi, su Grillo, su Grillo. No, è un caso clinico da neurodeliri. Direi che il problema non è Grillo, esistono delle cure adeguate. Il problema è chi lo segue, chi gli dà credito e chi si riconosce in lui. Questo sì che è un problema grave per il paese. Cioè ha dato dei coglioni sostanzialmente, dei malati di mente a chi vota Grillo, no, a chi segue Grillo. Beh, sostanzialmente coglioni. Sì, dai. Cioè, no. Ma sì, il problema non è quello. Dai, la su. Setta di chi. No, chi lo segue? Comunque, i militanti, caso clinico, neurodeliri. Caso clinico, no, neurodeliri. E cure quelli adeguate. Di meetup, quelli di questi. Ma perché meetup, non ti piace la parola meetup? Ti fa diventare pazzo. Ti fa diventare pazzo. Dillo, di la verità. Le sezioni di partito. Mi piacciono le sezioni, quelle vere ancora, no? Con dei luoghi fisici dove entri, le case del popolo, ma anche quelle che erano del vecchio MIS di Aenna, anche quelle mi piacevano. No, mi piacciono moltissimo. Ma tu devi dire. Le sedi mi piacciono. Tu devi dire. Il, no, il meetup. Il meetup. Cioè, anch'io non concepisco il meetup. Guarda, il meet. Ci troviamo. Il meet. Cos'è poi? Meet up, ma mi dà noia, mi fa proprio venire l'orticaria, il vomito, la nausea, mi repelle il concetto, la parola. Allora tu il mi modus devi dire, operandi. Se hai coraggio, mi devi dire a cosa hai paragonato Grillo, a chi hai paragonato Grillo. No, adesso me lo devi dire. Fammi questo paragone che mi hai fatto, perché lo so che hai il coraggio di dirlo. Al telefono mi hai detto a chi vuoi paragonare Grillo. Dimmelo chiaramente, dimmelo. Ma dimmelo se hai coraggio. Dimmelo se hai coraggio, sciocco. No? A un personaggio. Dimmelo. No, Grillo, ho detto più volte che è un guitto. No, che non hai il coraggio, guitto, non hai il coraggio. Che ormai non fa neanche più ridere. Non mi hai fa coraggio. Venire il vomito. No, ma non hai il coraggio. Non hai proprio. Non hai coraggio. Non hai coraggio. Ma il coraggio di che? Dire cosa? Non hai coraggio. Detto da Menzoni. Una setta, bin. Vabbè. Bin, bad. Beh, sì, vabbè. Titoli, va. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Voto di scambio sì definitivo del Senato tra la protesta dei 5 Stelle e bagarde e leghisti durante l'informativa di Alfano sull'immigrazione. Nuovo stop di Strasburgo alla richiesta di sospensione delle pene accessorie per Berlusconi. L'ex premier non potrà candidarsi alle europee. Dell'Utri trasferito in ospedale a Beirut, tempi lunghi per l'estradizione. Il Libano chiede tutti gli atti dell'inchiesta tradotti in arabo. Voletti giù del 10% il costo dei contratti a tempo indeterminato per favorire le assunzioni, più flessibilità per i prepensionamenti. A Slavyansk, nell'est dell'Ucraina, i separatisti armati ostentano le bandiere russe. Kiev manda i carri armati, il paese sull'orlo della guerra civile. E polemica per le nuove immagini di manganellate della polizia al corteo di sabato scorso a Roma, il viceministro Bubbico punire i responsabili. 5 milioni di lavoratori dietro il mondo delle associazioni senza scopo di lucro. Per l'Istat è il settore che più di tutti muove l'economia. Ma cosa fai, baby? Mi alzo dal letto. E cosa fai, baby? E corro allo specchio. E cosa fai, baby? Adesso mi trucco. Fuori è quasi notte. Tra poco esco. Febal, amica mia, Febal, ieri a Matrix dicono che si sia abbia fatto vedere le tette al signor Giovanardi. In realtà fa il gesto, non è che apre, non è che apre. Beh, finalmente Giovanardi guarda qualcosa di accettabile. No, no, abbia il coraggio di dire che cosa stai dicendo. Finalmente Giovanardi? Giovanardi no, guarda non, qualcosa non di fare, bello. Non fare, non bofonchiare, ho parla chiaro. Ma non bofonchiare, finalmente Giovanardi ha potuto vedere qualcosa di bello. Ma perché non guarda mai qualcosa di bello? Secondo te quando guarda la moglie non guarda qualcosa di bello? No, allora? No, devi andare fino in fondo. A quello che dici. Adesso, poi te lo dico, non mi riferivo in alcun modo, guarda, solo la tua mente malata potrebbe non lo so, cioè, pensare alla moglie. Giuro che non ho mai pensato Febal alla moglie. Giovanardi. Finalmente guarda qualcosa di esteticamente. La questione è la credo. Prostituzione. Io non ho visto poi la Febal. Vabbè, d'accordo, mamma mia. Giovanardi e Febal. Ma non fammi dire cose che non dico. Io Giovanardi e Febal. Il problema non deve essere di carattere morale. Momento Martinelli. Il problema di questo paese è che ci sia una legislazione chiara di un uomo e che non sia mi fa applicata. Giovanni, le regole bisogna farle applicare. Ma sono di un uomo. Le tette mie sì. Sono più belle che c'hai ma mai Ma sono visto. Di un uomo, Cambi quindi la testa. Siamo non nel 2014. Mi coinvolgono. Non... Siamo nel 2014. Scusa, come gli ho detto prima? C'è stata una provocazione. No, come gli ho detto prima? Ho detto, guarda, sei una bellissima creatura, ma prima c'è 1,5 miliardi di donne per me che vengono prima di te. Giovanardi. Poi ci sei anche te. Ciao, Giovanardi. Ciao. Non cambiare la pelle. Prima di te vengono 1,5 miliardi di donne. Cioè non, proprio non ti guardo. Siccome sei un uomo non ti guardo. Non ti guardo. Sembrava scioccato francamente. Ma no, Pelesi dice attacco sessuale. Quello è forte. Attacco sessuale. Io l'ho fatto prima e voi farete lo stesso. Siamo Giulio da Venezia. Giulio da Venezia, buonasera. Ciao Cruciani. Dimmi. Ascolta. Ciao, chiedi a Parenzo cosa ne pensa dei venetisti che sono ancora in carcere mentre i 4 deficienti di Roma sono fuori. Parenzo, cosa che ne pensi del fatto che gli indipendentisti sono ancora in carcere mentre i 4 ragazzi, quelli delle devastazioni di Roma, sono ai domiciliari? Intanto non sono fuori perché, come hai ricordato tu prima, qualcuno è stato fermato. Sono primo, ai domiciliari, comunque, primo. Vabbè. Dai, allora? Sono ai domiciliari. Allora? Dai, forza, rispondi. E che vuoi che pensi? Penso che l'inchiesta di Brescia, quella sugli indipendentisti, mi lascia molto perplesso. Dopodiché, non è che io vedo uno dentro e l'altro fuori. Vabbè, sono Giulio, cose cosa volevi dire? Giulio, che volevi dire? Ascolta un attimo. Dimmi. Allora, questi di Roma li hanno presi in piazza e via dicendo. I venetisti sì. Sono andati a prenderli ancora prima di partire. Cosa facciamo? Sì, vabbè, sono reati diversi. Giulio, questa. Giulio, sono reati diversi. Se uno vuole andare nello specifico, sono reati diversi, cose diverse, inchieste diverse. Niente. Comunque, è vero quello che dici tu. Fa impressione un paese in cui c'è un'inchiesta, in cui non c'è nessun atto di violenza, ci sono delle persone in carcere da non so quanti giorni, sì. E invece gente che devasta la città, tira bombe, molotov, eccetera, eccetera, e non è in galera perché non Ma sono non in galera. Ma non è che sono fuori per volontà di qualcuno. Ma non sono in galera, invece dovrebbero stare in galera. È difficile identificarli spesso sono fuori. No, perché tu fai passare un messaggio populista e facile. Alcuni li hanno presi, alcuni li hanno presi. No, io non ho detto che siano infatti, colpa di qualcuno. Quando sono fuori. Riescono, per fortuna, li prendono. Molto brevemente, lei conduce una trasmissione ricreativa, con momenti di disinvolta volgarità e momenti di divertente pettegolezzo e qualche insulto. Intanto arrivano i primi nomi di candidati, quelli più interessanti sono di Forza Italia perché la lista del Partito Democratico sono già chiuse da qualche giorno. Forza Italia, tutto in extremis, candida, te la ricordi Parenzo, una che qui alla radio da noi... Beh, fece una grandissima battaglia con Emilio Fede, una tale Federica De Benedetto. Ma l'abbiamo intervistata nella notte dei tempi della Zanzara. Ma sì, perché aveva combattuto in televisione contro la Santanchè. Contro la Santanchè aveva combattuto in televisione, aveva fatto sbracare da noi in radio Emilio Fede. Una che voleva fare la rottamatrice del centrodestra, Federica De Benedetto. Sì. candidata come adesso è? Con il Sud, con Forza Italia, signora De Benedetto. Poi c'è un'altra che si chiama Ilenia Citino. Ilenia Citino, una cosa del genere. Sì, che... questi nomi non mi dicono nulla. Mi dice molto di più quel signore, quel tuo amico dell'esercito, il mio nostro amico Furlan. Numero uno, l'esercito di Silvio. Vabbè, quello è scontato. Dai. Candidi uno, beh, scontato. Candidi io uno, vorrei, candidato con Forza Italia, consiglio, se c'è ancora spazio, l'ascoltatore Riccardo. Io sì, direi che è perfetto. Riccardo, perfetto. Direi di partire con Riccardo. È più da Lega, secondo me. No, perché assolutamente Lega no. Del Sud. Ma no, è romano, no, assolutamente. È perfetto come candidato di Forza Italia. Io lo consiglio fortemente. Agitato. Riccardo, sì, sì. Ieri sera alla Zanzara. State... No, ma odia gli anziani, Riccardo. No, dovete stare all'ascolto, calmi, tranquilli, perché è veramente il numero uno. A me non mi sembra che questa è stata, che questa ci ha avuto 18 costole rotte. Questa stava in mezzo a gente che menava. Stava in mezzo a gente che menava, che tirava bombe, carta, quell'altro gli è zompato la mano, stavano tutti con i manganelli, con i caschi, con le spranghe, con tutte queste cose. Allora, se tu ti metti in mezzo alla gente che mena, qualche pizza la prendi pure te, no? Fancazzisti, tutto il giorno a non fare un cazzo, li vedo io in giro, io giro, ne faccio 40 appuntamenti al giorno, li vedo tutti ste secche coi rasta, fazze i cannoni, coi libri, oppure andiamo al centro sociale, ma vattene a fanculo, ma vai a lavorare, impara un mestiere, poi se lamentano, no? Perché dicono che gli immigrati i lavori li danno tutti agli immigrati, e te credo, te sa fa cazzo. Ti svegliamo quando tu stai per dormire. E mo quel pagliaccio che c'hai a fianco, quel radical chic, idiota, avvocato delle cause perse, oltre a difendere i vandali che distruggono la nostra città meravigliosa, difendimi pure a Babbiona, mo. Manco più nei programmi degli amici tuoi ti prendono, manco più nei programmi dei rossi, sei fallito, sei. Questa era contro Parenzo e Annarella, sì. La Babbiona era Annarella. Riccardo, sì, è perfetto per essere candidato con Forza Italia. Vabbè, ma che insulta, ha parlato di Babbiona, no, mica in generale, di tutti gli anziani, di Annarella, sentiamo. Brutto, brutto, brutto, volgare, brutto proprio, brutto. Dunque, perfetto. Mamma mia, secche di merda, avete distrutto questo paese dal 68 e poi con questa propaganda idiota, dateci il lavoro, diritto allo studio, diritto alla casa, sì, mo vediamo tutto, non vedo, ma vaffanculo, ve le dovete meritare le cose, meritare. Puoi portarci in tribunale. Il problema di questo paese è solo che ormai siamo al degrado totale, perché se ci fosse un minimo di regola, li chiuderebbero tutti quanti in un bel campo da calcio coi poliziotti e direbbero adesso carta bianca, te faccio vedere come torni all'università, a piagne torni all'università. Però devo dire una cosa, l'idea, se tu vuoi affrontare la polizia, perché lo devi fare al centro di Roma per rompere i coglioni alla gente normale? Vai in un bello stadio aperto, no? Apri lo stadio, fai entrare prima quelli, poi i poliziotti, e chi se ne frega, ma picchiatevi là, poi voglio vedere, però non ci sono i vicoli per scappare, non ci sono le pietre da tirare, amico mio, poi voglio vedere, se vuoi fare casino, fallo così, casino, fallo così, fallo in un prato di periferia, fallo in uno stadio, non al centro di Roma, non incendiando i cassonetti, rifugiandosi in un vicolo, mettendosi dietro un portone, con i caschi, ma andate con i caschi, dentro uno stadio, polizia contro questi qua, dunque, poi vediamo. Sono piccoli e signore, Massimo da Padova. Sì, buonasera, grazie. Io volevo dire qualcosa in merito proprio a questi carabinieri che prendono 1.200-1.300 euro al mese, sì, sono sì. Lì, prendono una montagna di botte e non le devono dare. E Parenzo dice che non li devono dare. E che cazzo devono fare questi qua? Stare lì a far rispettare le regole, però non possono alzare le mani, non possono far niente? Nessuno e trovano la ragazza la calpista, no? Ma... cioè, no, dunque, per lei, per lei un poliziotto può calpestare una ragazza. Ma non è che il poliziotto può calpestare, è capitato e c'è una montagna di gente che non fa un cazzo dalla mattina alla sera, che è lì a rompere le palle, che è lì a devastare una città bellissima. Ok, è così, io sono di Padova, sì, ok? Sì. Io sono stato a Roma e vedo queste scemenze qui, questa gente rincoglionita che non ha un cazzo da fare tutto il giorno. Io ho fatto 400 chilometri oggi per andare avanti, indietro, a consegnare, a fare, a cercare, certo, di portare a casa, certo, qualcosa, e dopo trovo sti cretini e cosa si attaccano? Alla televisione e senti parlare solamente del poliziotto che ha calpestato. Ma quei quattro deficienti invece, che sono molti di più di quattro, che hanno rotto le vetrine alla gente, ai negozianti, e questo e quello, che devono andare a cominciare una pantomima con l'assicurazione per cercare di riparare, di fare, di partire. Sì. Ma che? Ma è questi, chi è che li paga? Cioè, ma dai, come dare ma torto, poi... come dare torto a Massimo, come dare torto a Massimo. Basta con questa roba. No, ma non sono diventato populista, sono una persona normale. È una persona inutili, normale. Sono due temi diversi. In un altro paese, allora, non accadrebbe, polizia, non succederebbe. Ma che stupidaggine. Sarebbero in galera per tre mesi questi qua. Che... Non ma è vabbè, che puoi andare in giro liberamente. Ci sono delle pene, ma chi difende queste vabbè, cose? Vabbè. Vuoi spiegare? Ma io non sto dicendo che difendo chi spacca le vetrine. Ho detto semplicemente che se la polizia commette alcuni abusi e vengono accertati, va punito chi lo commette. Va bene. Il capo della polizia sub legge libertas. Sub legge libertas, bravo. Motto, sub legge libertas. Benissimo, hai detto recita la tua stronzata. Edoardo da Bologna. Hanno... Beh, se non hai detto cose, la tua banalità. Edoardo scritto... da Bologna. Ma la banalità, dici delle cose fammi apposta sentire... per provocare. Ma io non lo dico perché ci credo. Chi me... Ma, no, ma è gra... non è vero che ci credi. Perché sì, ci assolutamente, credi, io non sto difendendo patetico, chi mena. Non sto difendendo patetico, chi mena. Le immagini cui tu accennavi oggi, le immagini cui tu accennavi oggi, è un'altra cosa. Evocate anche dal benissimo, se uno fa, ha commesso... di cui tu non hai voluto parlare. No, io voglio parlare. 19:42... perché sei volutamente polemico. Sì, vabbè, volutamente polemico. Guarda, se un poliziotto ha commesso degli abusi, apposta, va benissimo. Picchiato se un... è duro, picchiato. Io non ho detto picchiato è duro in questa occasione, non l'ho detto. Come no? Un attimo, altre un attimo, un attimo. Stupidaggine. Silenzio, eh? Perché questa sera stiamo cercando di costruire qualcosa di incredibile, di incredibile. Nemmeno Parenzo lo sa cosa stiamo cercando di costruire. È una cosa che mi sono inventato così sul momento. Edoardo, allora. Pronto, buonasera. Sentite? Dimmi, sì. Ah, buonasera, salve ragazzi. Una cosa, no, mi riallaccio alle parole di Riccardo che sono condivisibili e lo voto. Io ho fatto il carabiniere tanti anni fa quando ho fatto il militare e vi dico, ho fatto all'ordine pubblico, quando devi caricare devi caricare. Ma sì, quando carichi carichi e picchi, dai, Parenzo. Su, quando carichi picchi, c'è poco da fare, fa. Dai, Parenzo, quando carichi picchi, se è vero ci sono delle regole, non dovresti, come dire, picchiare selvaggiamente qualcuno per terra, certo, non c'è dubbio su questo qua, non c'è dubbio. Oh, meno sì, male. Ma per carità. Se uno si alza la mattina e si vuole mettere dopodiché, a fare manganellate. Dopodiché non è che i poliziotti sono degli autori. Hanno preso bombe carta per 20 minuti. Bravo. Per mezz'ora arrivano là e danno due botte. Perché ma è normale, fai, metti no, tutto insieme? Ma dico che la responsabilità penale è personale. Solo perché vengono con i caschi, magari si mettono le spranghe, si coprono, tutte cazzate. Questi qua, no, se voglio fare manifestazioni, vengono come persone normali, si mettono quelli. Perché si devono mettere i caschi, i bavagli? Già quello li metterei. Ma questo non c'è dubbio. Ma bisogna dirle queste cose. Bisogna però dirle. La gestione dell'ordine pubblico, per oddio, fortuna, è in mano alla polizia, che è gente responsabile. Pubblico. Non a Cruciani, che dal caldo del suo studio radiofonico ben c'entra? Pagato, fa delle polemiche inutili, vabbè, e banali nei confronti di una persona vittima, quella che è stata calpestata e sulla quale tu ieri hai ironizzato in modo barbaro. Cioè io veramente, ma fossi i genitori all'ascolto di questa signorina qui, ma fossi lei stessa, vabbè, ma mi sento anche ferita due volte. Vabbè. Da un arrogante che dai microfoni della radio dice calpestatina, una calpestatina, sì, sì, io lo ripeto, una mi sembra una calpestatina, francamente, ma, una calpestatina. Ma che sei tu per dirlo di una persona mi che mi fai è sentire stata, Francesco da Varese. Francesco da Varese, grazie. Pronto? Dimmi Francesco. Pronto? Mi senti? Buonasera Cruciani. Vai, vai. Aspetta, ho telefonato ieri sera ma non hai ancora la cosa. Io volevo osservare una cosa. A Bottacalda, io non ricordo ancora il TG di settimana scorsa, ho visto passare il servizio, il video del poliziotto nel casino di tutto, nel suo contesto ambientale, nel casino della manifestazione, eccetera. Il poliziotto era ritratto a figura intera e si vedeva benissimo il suo tragitto. Sì. Ed era mostrato, e ho visto anche quando lui ha calpestato, diciamo, ha calpestato un fagotto per terra, qualcosa del genere. Bene, da quel momento là, io tutti i servizi che ho visto passare, li ho visti passare, che mostravano il poliziotto dalla cintola in giù. Però guardi, adesso lei ci sta raccontando un'interpretazione di quello che ha fatto, no, il poliziotto. No, vedremo. Lo guardi bene. Sì, ma vedremo, non lo so, lui dice che... No. Non voleva passare apposta là, ma era... Io so guardare e si vede chiaramente... E dunque la sua interpretazione qual è? Cammina con la testa alta, guarda in giro, ha messo... Sì, ma non c'entra niente. Se non ha fatto con nessuna intenzione. Sì, però se tu guardi con la testa in alto da un'altra parte, può anche darsi che lo fai apposta. Esatto. No, può darsi anche che lo fai apposta a guardare là per fare finta di passare per caso. Per carità, allora sarebbe un cinismo assoluto. Ma l'accusa è quella. Ma io non credo neanche alla calpestatina che dice lei, che è ironica, ma invece probabilmente è stata una cosa... Non è stata, si vede, provate a guardare bene il video, a mio parere proprio non l'ha fatto apposta, perché non è possibile, perché non ha nemmeno schiacciato con intenzione. Se lei vuole schiacciare qualcuno, lo schiaccia. Guardi, l'impressione è quella di uno che vede quella scena lì e passa apposta sopra. La prima impressione è quella, poi sa. Io la prima e lo dico io che difendo quel poliziotto, poliziotto. Guardi, la prima impressione è quella là. Come fai a difendere un abuso? Scusa. Ma quale abuso? Un abuso di potere, come fai? Fermo, zitto. Non mi mordere il dito, non mi macchiare il vestito, ma non mi... Francesco da Roma. Buonasera, signor Speziani. Dimmi. Volevo dirle... Si sente male, Alberto dalla provincia di Treviso, la richiamiamo. Buonasera, Cruciani. Dimmi, Alberto. Ascolta, Giulio prima di Venezia mi ha anticipato come domanda. Cioè, cosa pensava Parenzo di questa storia di sti quattro... scusami, delinquenti che hanno rovinato una bella città come Roma, e a proposito di quelle 21-24 persone che sono ancora dentro. Cioè, mi viene da pensare che ha ragione chi dice che in Italia fa più paura un'idea che non un fatto, perché se questi, invece di forse pensare di costruire un carro armato con una ruspa, per assurdo, sì, è tecnicamente impossibile, dovevano forse andare anche loro a Roma con la fiamma ossidrica, il cannello, la ruspa stessa magari smontata, e demolire metà città. Probabilmente a quest'ora sarebbero tutti quanti a casa con le proprie famiglie, come sono gli altri quattro. È probabile, Alberto, se facevano una bella manifestazione in piazza... No, l'unica cosa che... Sì, solo che non avevano i drappi rossi magari, no? Siccome non avevano i drappi rossi... Ecco, dopo un'altra cavolata. Scusami, perché i carabinieri... o le forze dell'ordine devono avere l'elmetto numerato per essere identificati? Ma che ne so, in Inghilterra è così, non succede niente effettivamente, ma in Italia ci sarebbe una caccia all'uomo spaventosa per la minima minchiata che succede, per la minima cazzata, dai. Cioè, per la minima cazzata ci sarebbe una caccia all'uomo e al poliziotto. Di democrazia e di trasparenza. Ma quale democrazia e trasparenza? Pubblico. Non c'entra niente. Il numero non serve a niente, anzi, sarebbe stato ancora più facile. È anche a garanzia di chi porta quel numero. Sì, a garanzia. Cioè, se tu... Certo, se ragioni, è a garanzia del funzionario dello Stato che è in piazza, sì, e che è in grado di... Cioè, a garanzia sua anche. Sicuro. A sua garanzia. Sicuro. Vabbè, ciao. Certo. Vado a stare svegli. Sono onesti, loro sono coraggiosi, loro sono gente con le palle. Sai cosa che mi sveglio Marco da Firenze? Sì, pronto? Dimmi. Ciao. Vai. Pronto? Posso vai. Parlare? Sì, Marco, puoi parlare, oh. Vai. Ok, buonasera a tutti. Vabbè, dai, su, Marco, pochi preamboli. Scusa, buonasera, dai. Non colpa di te, perché ti sentivo lontano, scusa. No, io volevo due cose. Prima difendere una volta tanto il povero Parenzo, perché l'attacca a tutti, mi fa morire. Io ci muoio da me di sale con Parenzo. È un grande. Onestamente è Lecchino, per l'amor di Dio, col PD, non so se farà carriera politica, però è simpatico. Ma io dico quel che penso, non mi aspetti che c'ho una notizia importante. La Mussolini è candidata nel Lazio, eh? La Mussolini è, Alessandra Mussolini, reduce dallo scandalo che sapete, è candidata nel centro. No, reduce dallo scandalo, dai, notizie false. Ma reduce dallo, perché non è reduce dallo scandalo? Non è coinvolta in nessuno scandalo. Ma no, lei. Ma non lei personalmente, finiscila! Devi dire le cose giuste, non reduce. Vabbè, dallo allora scandalo. parla tu che così ti ascoltano in tanti. Reduce dallo scandalo. Certo, reduce dallo scandalo familiare, scandalo. Su questo non c'è dubbio, no? Marco da Firenze, non ho il detto il marito che... è stato coinvolto nella vicenda. Senti, Parenzo, non mi rompere i coglioni, Marioli. Marco da Firenze, non rompere i coglioni, per favore, Marco, su, dai. Devi dire le cose dette bene, vabbè, non d'accordo, stupidaggini. Vabbè. Sì, stupidaggini, va bene. Marco, è reduce da uno scandalo, Marco da Firenze. Lei nessuno scandalo, lei. Per andiamo, su, e forza. Dai, Parenzo, dai, forza. Perché altrimenti. Nessuno fatemi difendere la Mussolini, scandalo, nessuno scandalo. Ma non c'è, non la stavo attaccando. Non la stavo attaccando. Ma la smetti, allora, non la stavo attaccando. No, reduce da uno scandalo comunque. Scandalo. Smettila. Sbagliato. Smettila. Sbagliato. Non è sbagliato. È sbagliato, è sbagliato. Tu devi stare zitto. Incredibile, guarda, è incredibile. Cioè, è diventato incredibile. Perché ti faccio le pulcine. Ma quali pulci? Ho detto reduce da uno scandalo comunque, perché la cosa ancora ha provocato scandalo. Smettila di fare il buffone. No, hai detto reduce da uno scandalo. Sì, è, infatti è reduce da uno scandalo. È reduce da uno scandalo, basta, smettila. Lei non è reduce da nessuno scandalo. Mamma mia, oh. Colto, cioè, di fallo. Hai sparato la merda per una vita su Berlusconi. La merda hai sparato su Berlusconi. No, adesso perché io no. Dico una frase. Io la Mussolini coinvolta in uno scandalo. Io fai il precisino con me. Ma non fare il precisino con me. Devo dire su... Ma smettila, smettila. La solita tecnica di buttare tutto insieme. Ma smettila, insieme. Ma stai, non palla finita. Palla me. Finita. Non funziona. Ma stai zitto. Non è che butti tutto insieme. Stai zitto, buffone. Dici delle buffonate inaudite. Quello che avevo da dire su Berlusconi l'ho detto. Ma smettila. Non è reduce da nessuno scandalo. È reduce da uno scandalo, punto e basta. Basta, smettila. Lascia perdere che lei non è coinvolta direttamente. È comunque reduce dallo scandalo. Ma che c'entra? Ma quello l'abbiamo sempre detto. Stato la responsabilità. Non c'è niente da fare. Ormai ha perso. Comincia a imparare. Ha perso qualsiasi cosa. Ha perso qualsiasi cosa. La sintesi giornalistica. Ha perso qualsiasi cosa. Ma vattene da un'altra parte. È no. Sintesi giornalistica. Ma vattene da un'altra parte. Certo, è una sintesi giornalistica. È sintesi giornalistica. Ah, vabbè. Assolutamente sì. Ascolta, Marco, che cos'è? Marco, che giudica cos'è quello che ascolta? Vabbè, Marco, che c'entra Marco? Perché Marco, Marco non può giudicare, è un ascoltatore che giudica. Marco? Ma sì, ma che me ne frega me? Sì, che cos'è? Non è una sintesi giornalistica quella che ho fatto? No, sì, certo, ma sono d'accordo con te. Io praticamente è soggetto dallo scandalo, è vittima dello scandalo del marito come vuole. Ma comunque non è il caso di nominare lei. Non, anch'io sono d'accordo. Io voglio comunque difendere Parenzo, sì. Perché mi è simpatica in maniera pazzesca. È un po' Lecchino, Cruciani, ovviamente con la sinistra. Non so se farà carriera politica, ma insomma. Però poi è corretto, politicamente corretto, ma mi è simpatico. E lo attaccano un po' sotto, un po' troppo. Va bene, Marco, grazie, grazie. Non mi moleste moschito. Non mi moleste moschito. Non mi moleste moschito. Caro Parenzo, candidato con Forza Italia, Alessandro Cecchi Paone. Buonasera, ciao Alessandro. Ciao, ciao ragazzi, avete visto che non era una bufala? Beh, non è una bufala, hai detto che eri candidato con NCD, hai detto, scusami. No, non l'ho detto io, l'NCD che mi aveva chiamato tramite Scopelliti per farsi perdonare la battutaccia omofoba. Poi sono scomparsi, hanno fatto una figuraccia e Berlusconi, come sempre, si è rivelato, almeno con me, una persona del tutto affidabile. Cioè, non ho capito, ti ha chiamato Berlusconi direttamente per la candidatura? Sì, sì. Adesso ci racconterai tutto tra poco, dopo la pubblicità. 800 24 00 24. Alessandro Cecchi Paone, paladino di nozze gay, adozione e quant'altro, candidato con Forza Italia alle europee. Era già stato candidato una volta, ma è stato trombè, come si dice in gergo, però insomma ha spesso criticato l'omofobia nel centrodestra e adesso candidato con Forza Italia. prenda atto che ormai è tutto finito. Allora, ti dico subito, caro Alessandro, Alessandro Cecchi Paone, candidato con Forza Italia, dopo una telefonata da parte di Silvio Berlusconi in persona, che Maurizio Bianconi, un esponente molto ruspante di Forza Italia, e dunque del partito con cui ti candidi, uno che ha fatto anche, credo, il tesoriere, cose di questo tipo, comunque si è occupato dei soldi di Forza Italia, è favorevole al finanziamento pubblico, ma quello lo lasciamo perdere, ma non deve avere... Maurizio Bianconi ha detto... Fuori la Ceccacci Rubino, che è una che ha fatto l'attrice anche per Tinto Brass, non solo per Tinto Brass e altro, che era in Parlamento fino al 2013, poi è stata non è riuscita a passare alle scorse elezioni. Dentro Cecchi Paoni, cosa è cambiato nel partito? Beh, come dire, fuori una bella ragazza, dentro Cecchi Paone. Capito l'aria che tira da quelle parti? Capito l'aria che tira? Che ci sono abituato, perché fino a che non è nato l'NCD, sai che c'erano dentro Formigoni, c'era dentro tutto il mondo più omofobo possibile e immaginabile. Se ne sono andati tutti, perché Bianconi non va con loro? Così si trova più a suo agio. Tu dici, sono andati i peggiori omofobi, sono andati tutti con Alfano, tu dici, no? Beh, scusa, Giovanardi, sono tutta gente con cui per 10 anni ho convissuto nella stessa area politica, sì, con però delle aggressioni terribili da parte loro, che dimenticano che il Partito Popolare Europeo, di cui facciamo, sì, parte, è un partito che in Europa è tutt'altro che omofobo, è molto vicino a tutte le garanzie civili per tutte le minoranze. Sì, però se Bianconi sta così agitato, può andare da Giovanardi e si trova meglio. Devo dire la verità, che con Cecchi Paoni ci divertiremo, perché certamente Alessandro non le manda a dire, se ne fotte totalmente. Beh, siamo colleghi, siamo giornalisti, siamo gente appassionata, siamo gente le tue che idee. Arriva alla politica perché proprio ci crede su certe cose. No, no, non è che devi fare, non è che devi fare lì a fare i compromessi, le tue posizioni su queste cose, esatto, sono chiare. Senti un attimo una cosa, ma la telefonata con Berlusconi com'è andrai, stata? Vero? È andata perché lui aveva bisogno di un forte rilancio al sud, purtroppo la Mara Carfagna diceva continuamente di no, e sarebbe stata una coppia perfetta, giusta anche per Bianconi, io e la Carfagna insieme. Carfagna Cecchi Paone, pensa che coppia, scusa, meravigliosa, avremmo fatto contenti tutti. Purtroppo Mara pare che non se la sia sentita, e allora lui mi ha detto: ci devi fare, devi starci tu, anche perché lui ha saputo del mio amore, del mio rapporto per il sud, insegno a Napoli, vado in vacanza in questa amalfitana, Valentina, in Abruzzo, e a quel punto ho detto: certo, se non rinasce il sud non rinasce l'Italia. Vabbè, non esagerare adesso, non esagerare, se non rinasce il sud non rinasce l'Italia adesso, la candidatura alle elezioni europee, ma tanto poi non è che ci si occupa di sud. Comunque, vabbè, a parte questo, Alessandro, io me ne occupo, come, vabbè, ho 10 anni che lavoro qua per loro. Vabbè, scusa Alessandro, però dimmi una cosa, questa telefonata com'è stata, com'è stato l'incipit, chi te l'ha passato? L'incipit, guarda, noi ci conosciamo dell'87, ma che ha fatto? Il migliore editore che io ho sempre avuto, e mi ha detto questo: ho bisogno di uno come te al sud per smuovere il mondo meridionale, perché appunto... Ma sui gay che ti ha detto? Sui gay che ti ha detto? Qualche battuta l'ha fatta? No, mi ha detto, lui mi dice sempre: fai quello che vuoi, quindi molti non ci credono, Berlusconi è un libertario vero, lui non sapeva che avrei fatto coming out 10 anni fa, e come vedi siamo ancora qua, cioè una persona enormemente rispettosa della libertà individuale. Poi le scelte di campo che vengono fatte a livello di gruppi parlamentari purtroppo non sono sempre in linea con i miei desideri, ma sono cose diverse. Scusa un attimo, ma dunque non ti ha detto: va, sulla questione dei gay stai un po' sghiscio, stai un po' attento? Assolutamente no. Ma secondo te lui dentro di sé è favorevole al matrimonio, all'adozione? Sì, ma solo che non lo può. Lui è un libertario naturale, quindi una cosa è le cose che deve fare quando fa il leader di una coalizione, ma non esiste azienda più disponibile e aperta nei confronti di gay in Italia di Mediaset. È sempre stato circondato, no, a parte l'azienda, ma è stato sempre circondato da froci pure Berlusconi, non è che... o no? Beh, devo dire di sì, perché se ne rende conto che soprattutto in certi campi artistici, creativi, sono assolutamente fondamentali. Senti, ma secondo te com'è possibile che, nonostante siano passati degli anni eccetera eccetera, alla fine, caro Parenzo, l'unica persona che si candida omosessuale dichiarato in Forza Italia, comunque PDL eccetera, si chiama Alessandro Cecchi Paoni? C'è qualcosa che non funziona, caro Alessandro? Anche in queste elezioni ci saranno gay non dichiarati, o no? Strano, certo che ci saranno, diciamo che forse qualcosa non funziona negli altri, in me, come vedi, funziona, perché io ho sempre detto: non cambio idea, non l'ho cambiata. Ma quanti ci sono? Quanti... Non mi sono ritirato, non mi sono nascosto. Quanti sono i gay in Parlamento e Forza Italia, secondo te? Quanti ce ne sono? allora tu dicevi prima del PDL, io ti posso dire che ce n'erano più nel PDL nascosti perché avevano problemi di carattere clericale e di ipocrisia che in Forza Italia, dove comunque se uno è gay, soprattutto oggi, lo dice o lo dirà. Ah, in Forza Italia si può, invece quando c'erano... Il PDL era molto irregimentata sia per motivi di provenienza dall'estrema destra di alcuni e da altri, soprattutto per i legami con il Vaticano di prima di Papa Francesco. Adesso pure Bonaiuti, che per carità non voglio dire niente, è andato con NCD, pure il signor Bonaiuti. Sì, ma non credo che sia collegato a questo aspetto. No, assolutamente. Comunque, Berlusconi non sapeva che tu avevi fatto coming out, cioè manco sapeva che eri gay, non ho capito. No, non sapeva che l'avrei fatto quando mi ha candidato 10 anni fa, per questo, per dirti che non si è per niente arrabbiato, perché sa perfettamente quanto in una società aperta e dinamica le minoranze, mica soltanto i gay e le lesbiche, comunque, sono fondamentali. Diciamo la verità, tu e quale sarà il tuo slogan? Perché andrai non fai al un bel Parlamento manifesto? Europeo? Andrai al Parlamento Europeo con lo slogan "Viva i froci". Beh, no. Sì, Viva il Sud. Ma che te frega del Sud, Alessandro? No, invece dai. Mi frega, è fondamentale. Però ma quale Sud? Lo slogan vero che fa contento Berlusconi e chi ha altri gusti, che sono in maggioranza, è che intorno a quelli che tu chiami froci ci sono sempre le donne più belle. Cioè? Ah, intorno ai... No, così, è una legge. È una intorno legge. Intorno ai froci, come tu li chiami. Ma io li posso chiamare perché... sono sempre le donne più belle, anche per questo siamo simpatici a Berlusconi. Capito? Posso darti un suggerimento di campagna elettorale? No, questo è fondamentale. Un suggerimento a Cecchi. Ha detto una cosa fondamentale, Cecchi Paone. A Berlusconi stanno simpatici i gay perché intorno ai gay, che io chiamo froci perché sono stato sdoganato e posso utilizzare questa parola, ci sono sempre bellissime ragazze. Te lo confermo. È così, dai, che dici, Parenzo? Certo. Ti volevo dare un suggerimento all'amico Alessandro. Perché non fai, visto che bisogna prendere le preferenze e quindi si vota la persona, perché non fai dei bei manifesti tu abbracciato, non dico che baci, ma abbracciato al tuo compagno con un bello slogan, no? Tipo Forza, questo ci vorrebbe, guarda, no? Non avrei nessun problema. Forza Italia, Forza Gay, anni, ad esempio. No, avete saputo che negli anni avete visto dei servizi con il mio compagno. Certo. Adesso però purtroppo sono single e non me ne posso inventare uno per una cosa. Ti sei lasciato ancora? Sì. Succede come. Mamma, ma tu cambi più uomini di non so. Di quanto si cambia le mutande, Cruciani? Uno un anno, un altro due, non sono mica pochi in pochi con la vita che faccio e con il periodo che stiamo vivendo, dai. Ma sempre giovani comunque, a te piace. Ma questa cosa per me è sconvolgente, io comincerò a dire, ma è possibile che a te piacciono sempre vecchie? A me piacciono giovani e belli, non capisco perché la cosa ti faccia così strana. No, perché io ho da un po' di tempo una fissazione per chi ha 10-15 anni più di me, che devo fare? C'ho una sorta di attrazione e fatale. Perché ne ha 10 meno di me, dai. No, che 10, tu sei anche 20 meno di te, dai, tu. Ma sì, non oltre. Beh, non oltre, un bel 18enne, No, no, è che sei matto, come no. 25 no. Sì, però, sui 25 sì. 25 assolutamente sì, con 18enne non saprei che dirmi, tranne uno particolarmente colto, particolarmente secchione a scuola. Ma che? Ma tu spesso ti scegli tronisti, cose così, ma dai. Ma quanto mai? Ma sì. Nulla contro, perché sono spesso belli, ruspanti e simpatici, ma non è mai stato così. Comunque, guarda, io credo che tra Viva e Froci e Viva il Sud è meglio Viva e Froci, come slogan. Comunque, Sai cosa faccio? Ritiro fuori come slogan la cosa più bella che ho fatto in vita mia, cioè? Che è piaciuta a tutti, cioè la macchina del tempo, la risistemo come slogan politico e vedrai che saranno contenti tutti. Cioè, qual è? Adesso lavoro sul titolo Macchina del Tempo, rilancio la macchina ma del no, tempo. Ma no, tu devi fare porti in Europa i matrimoni gay, le adozioni. Fatti una foto col tuo, che ne so, inventati un compagno, vedi, un fidanzato con un bambino in mezzo, alla faccia di Giovanardi, alla faccia di Giova. Possiamo dire sicuramente che in quel caso la scelta di voto fra me e Giovanardi, fra Forza Italia e NCD, sarebbe definitivamente risolta. Mi sembra eccessivo, insomma, io. Con Gasparri come la mettiamo? Con Gasparri come la mettiamo? Gasparri no. Forza Italia, Gasparri è Forza Italia. Gasparri è Forza Italia, e poi devo dire che ultimamente su questi temi lui si è molto concentrato nella battaglia contro l'aborto, che io ovviamente invece difendo, ma ha lasciato perdere la battaglia contro le coppie omosessuali. Ma insomma, dai. Comunque vai al sud. Giovanardi, scusami, comunque di la verità, voglio che il sud la smetta di chiamarli ricchioni, di prendere in giro gli omosessuali, basta col sud omofobo, diciamola tutta, basta col sud omofobo. Ma dico di più. Ho scelto il sud perché ho scoperto che, nonostante queste frasi che tu sdogani e io ti aiuto a sdoganarle, è molto meno omofobo di certe parti del nord. Cioè, tra il nord leghista e il sud non c'è paragone come disponibilità e come sostanziale accettazione. Bah, dai, adesso questo qua... No, ti assicuro, le mamme e le nonne del sud sono molto più accoglienti delle mamme leghiste. Ma chi era quel ministro? Chi era quel ministro del governo Berlusconi che tu avevi detto una volta che era gay? Non me lo ricordo più, anche perché non avevo detto che era gay. Avevo detto che, secondo me, il problema che c'era in quel governo con quel ministro poteva nascere da una difficoltà proprio... Comunque tu dici tutti gli omofobi sono andati con Alfano, questo dici? Tutti gli omofobi un po' scemi, perché lì si ritrovano fra tutta gente abbastanza vecchia, oltre che omofoba, e maschi. Invece, appunto, i maschi che frequentano noi gay, che vengono a tonnellate nei nostri locali, trovano delle donne bellissime che sono le nostre amiche. Dai, su, pure Mastella. È vero. No, dai, su. È vero, ti assicuro, vieni con me, ti porto in una discoteca gay di Napoli, dove ci sono ovviamente dei ragazzi bellissimi che interessano a noi, ma troverai delle ragazze anche vecchiotte che piacciono a te a bizzeffe. Ma sì, davvero mi stai dicendo? Certo, vieni a fare la prova, facciamo una diretta, porta anche Parenzo. No, ma di una cosa, chiama Luxuria, dì, anche tu vieni, candidati anche tu con Forza Italia, Luxuria, candidata con Forza Italia. Secondo te Berlusconi non la candiderebbe subito? Ma no, dici? Subito. Beh, sarebbe pure secondo me la candiderebbe, pure secondo me la candiderebbe. È Luxuria che voi avete difficilmente... un'idea di Berlusconi che non corrisponde al vero dal punto di vista del suo essere un libertario di fondo. Poi, ripeto, ha dovuto allearsi, ha ritenuto di allearsi nel passato, soprattutto nell'epoca PDL, con della gente che adesso sta tutta nell'NCD. Ma per il resto lui, libertario era, libertario rimasto. Bianconi, il signor Bianconi. Ma Bianconi, secondo me, se fa in tempo a transitare verso l'NCD, si troverà abbracciato a Giovanardi e felice. Grazie, non a presto. Sarà contento. Ne vedremo delle belle, caro Cecchi. Quando volete. Abbracci, piglierai, discoteca. Piglierai 4 voti, secondo me. Adesso la mia però saranno buoni, sarà una grande battaglia libertaria. Com'è Pannella, com'è la battaglia, che battaglia può fare Cecchi? Una grande battaglia di Alessandro, anche Cecchi, anche Paone, tutti e tre i candidati. Ma no, è uno solo, Pannella, tre: Alessandro, Cecchi, anche Paone, per la libertà di essere gay come Pasolini, di avere il diritto all'aborto anziché le mammane che Emma andava a fare gli aborti clandestini quando era vietato, Benedetto Croce e Einaudi, il mondo di Pannunzio. E abbiamo detto noi nel 44 e 48, quando Altiero Spinelli in Europa diceva radicali, liberali, libertari, ora free, libero. Grazie. Vaticano, no Vatican, no Taliban. Lei quei Crociani, lei, vero? Quello che dice sempre traffico, è lei, vero? Volevo dirle che lei le piace molto alle donne. Ronda, se va bene ronda, ma poi invece sa bruciare proprio addosso a me. Fa male solo a chi non sa ridere, e la zanzara. Pierluigi, Roma. Salve Cruciani. Ciao. Oh, trasmissione. Un attimo, Pierluigi, un secondo, resta lì. Pronto? Sì. Alessandro un attimo è impegnato con un editore. Me lo passi un attimo, sono Cruciani, un secondo. Sì. Un secondo, molto velocemente, scusami. Ti aspetto al ristorante appena arrivi. Stasera. Grazie, ciao. Eccomi, che scusa, successo? Alessandro, chi ha risposto adesso? Un tuo segretario, un tuo assistente? Chi è? No, è un ragazzo che mi sta aiutando a fare la campagna elettorale dei social network qua da Napoli. Non c'è niente tra voi, eh? Purtroppo no, è molto carino. Homosex? No, è etero, mannaggia. Etero, gli etero è proprio. Uno di quelli che gli piace venire con me perché trova tutte le donne intorno di cui ti parlavo. Ah no, mi sembrava dalla vocina un po', invece no, etero, vabbè, per carità. No. Etero. Senti, io vorrei farti spiegare una cosa. Dunque, tu sei a favore dell'aborto, no? Giusto? Sì, certo. Assolutamente. La pillola, sì, pillola RU486, sì, alla grande. Soprattutto. Meglio dell'aborto. Assolutamente, anche secondo me, alla grandissima. Legalizzazione delle droghe leggere? Sì. Sì, assolutamente. Radicale lui. Aspetta, ma sì, ma no, ma il numero uno, sto dicendo, legalizzazione delle droghe leggere. Poi che abbiamo? Legalizzazione della prostituzione subito, domani mattina. Beh sì, detta nel termine appunto di garantire che le strade vengano coperte, ripulite, le ragazze tutelate dallo sfruttamento e tutti dalle malattie e dalla malavita organizzata. Certo, matrimoni omosessuale, sì. In Italia, vista le fatiche che facciamo, mi accontenterei di un bel pax. Però comunque, insomma, riconoscimento della coppia, certo, assolutamente. Riconoscimento, insomma, voglio dire, è una vita che ho fai... paura che il matrimonio, prima che lo facciamo in Italia, forse. Vabbè, comunque nipoti. Sei favorevole in teoria al matrimonio, ci dovrebbe essere. Certo, ovvio, io vado continuamente all'estero a fare il testimone, certo, di miei amici che si sposano, sia lesbiche che gay, ovunque tranne che in Italia e in Grecia. Adozione pure, mi sembra, o no? Del single, perché adozione del single, me, che però poi può convivere con un gay, può convivere con chi gli pare, secondo me quello con che conta pare, è che una persona affidabile si occupi per tutta la vita di una ragazza o di una ragazza soli, poi con chi sta. Mi sembra, bravo, per Strasburgo, per il Parlamento Europeo, un ottimo programma, grazie. Cioè, è eutanasia pure o no? Mettiamoci pure l'eutanasia. Beh, sai che sto facendo battaglia con il professor Veronesi sul testamento biologico, che non è esattamente la stessa cosa, ma poco ci manca. Sì, insomma, sei favorevole comunque in linea di massima. Ognuno deve essere libero del suo progetto di vita, bravo, sia su come nascere. Ottimo. Quindi abbiamo fatto la battaglia contro la fecondazione assistita, la 40, che finalmente è stata smontata, ecco, dalla Corte, appunto, Costituzionale. E poi anche su come e quando morire. Bravo. Cioè, è assolutamente contrario alla legge 40, libertà di eterologa, certo, utero in affitto e cose di questo tipo. Guarda, cioè, io feci 10 anni fa con Veronesi, la Bonino, la Presti Giacomo di Forza Italia, sì, la battaglia contro la legge 40, sì, per 10 anni l'abbiamo criticata e oggi festeggiamo la Corte che lo ha praticamente cassata. Beh, mi sembra per Forza Italia, caro Parenzo, un programma perfetto. Un programma no, perfetto. Non dovete meravigliare, scusate, Forza Italia, no, quella dai, originaria, era piena di radicali, repubblicani, socialisti e liberali. Poi col PDL, sì, è successo il passaggio. Ma poi sono arrivati i Papalini, poi sono arrivati, no, i Papalini. Guarda che Galan. Ma che se ne sono andati? Galan. Non se ne sono andati. Galan sarà d'accordo, no, con lui, eh? Sì, Galan, certo, è d'accordo. Galan è d'accordo, ma non se ne sono andati. La maggior parte, quelli più cattivi, sì. Rimane qualche incrostazione, qualche Gasparri. Non ricordo. Adesso c'è Papa Francesco che ci chiede il dialogo fra diversi. Io ho scritto pure un libro che si chiama Le ragioni dell'altro, vabbè, in cui un laico resta laico, vabbè, un cattolico resta un cattolico, ma anziché scomunicarsi come durante il periodo precedente, con Papa Francesco si parlano. Un abbraccio. Sono sicuro, ciao, che Gasparri, ciao, non verrà alla tua campagna elettorale. No, mai. Vabbè, allora, Mauro da Brescia, dai, Mauro. Buonasera Cusciani, ho chiamato perché facendo la strada è davvero un supplizio sentire quello squallido figuro che gira lì vicino a lei, quel Parenzo, quello squallido figuro che passa nelle trovie intanto ricompare. Ma chi se ne frega di Strasburgo, non è quello il punto, dai Mauro, dai, dimmi. E deve difendere, come ha fatto mesi fa quando c'era quel suo compagno di merende che girava per Roma con l'estintore sulla testa a minacciare i poliziotti. Allora, no, lui non, allora precisiamo una cosa, il suo parente deve pensare che vive fortunatamente in Italia, dove deve, ma stai zitto un attimo, però o parli o non parli, lascia parlare un attimo. Non sto zitto per niente, lo querelo perché ha detto che ho difeso quello con l'estintore. Non ho mai difeso quello con l'estintore, il famoso Erpelliccia. Non l'ha mai difeso, mai difeso. E chi dice, e si becca una querela ora, microfono gracchia, no, ma rotto i coglioni. Benissimo. Uno che dice qual che io difendo i violenti, sì, no, ma perché non ho mai querelato nessuno, ma non possono continuare a dire che io difendo i violenti perché io quelli no, e tu lo sai che non ho mai difeso, infatti l'ho detto, infatti lo sto dicendo, assolutamente. Mai difeso questi, assolutamente. Questo è, Mauro, allora è da bastardi dire il contrario. Le ha dato del bastardo, Mauro. Ho detto dire che io difendo la polizia, che la difende, certo, perché se stesse da un'altra parte oppure in mezzo allo stadio tra i poliziotti e i delinquenti che vanno in giro a saccheggiare Roma e altri posti, sarebbe sicuramente in una situazione un po' più difficile di quella dove sta adesso, seduto col casmirino, col bicchierino, con tutte le sue fa comodità. Caldo, niente caspi, quindi fa caldo, non dica adesso delle stupidate, perché lei dovrebbe vivere nel mondo reale, Lino non stare dove solo sta. Va bene, caspi, Pierluigi da Roma, Lino irlandese, solo Lino irlandese, niente caspi. Io mi sento, adesso mi sento in imbarazzo, perché stasera sembra come sparare sulla Croce Rossa. Perché? C'è il povero Parenzo, poverino, che francamente guarda, mi è simpatico a prendere la toppa dietro un'altra. Per esempio? Ma per esempio, dai, ogni volta io sento parlare di Grillo da Parenzo sembra il nocciolo del male. È perché Grillo, no, che è un pa... voglio dire, se Grillo c'è è perché male, c'è stata una masnada di ladroni. Per cui vabbè, voto Grillo oggi alle europee, dopo le europee, finché ci starà lo voterò. Non tanto se gli piace così. Ma vedi e se le piace così, vedi Parenzo, che tu talvolta siamo in democrazia, evviva, vota Grillo. Un attimo, per Luigi resta lì. Evviva. Niente, non mi riesce sta cosa stasera, guarda, c'ho una rabbia. Ho una rabbia dentro, non mi riesce questa roba, guarda, è incredibile. Pierluigi, allora? Allora niente, insomma, ogni qualvolta parla di Grillo sembra che il male sia Grillo. No, il male è tutto quello che c'è intorno, che c'è stato intorno finora, perché è grazie a Grillo che si sta muovendo qualcosa. Tu guarda Renzi, sta prendendo quasi quasi voce per voce quello che avrebbe voluto far Grillo. In sedicesima però, tipo le auto blu, abbiamo venduto le auto blu 16-14, guarda che ce ne sono 19.000, ci sarebbe da dirti, vabbè, ma a parte quello, poi si schiera a favore dei poveri dimostranti. Allora, io sono un dimostrante, sì. Dimostro con la parola, con i miei colleghi, al bar dove mi trovo, cerco di tirare fuori la mia e di portarli sì. alla ragione dicendole alcune cose. Non vado a manifestare con le spranghe o con i gas lacrimogeni. No, se quelli, poi, i gas lacrimogeni li lancia la polizia di solito. Comunque, se vabbè. C'è qualche pezzo, scusami, sì, bombe Molotov, esatto, pietrini, bravo, sì. eccetera, perdonami. Oh, se in pratica poi tutti questi sconvolgimenti, non è che uno per una pestatina, e hai detto bene, una pestatina, una calpestatina, una calpestatina. Siamo, non mi sembra che sta ragazza sia ferita, morta, lei per carità, ogni tanto è successo, ringraziando il cielo non è successo l'altro ieri quando è stato, però Parenzo ogni volta fai poi con sta vocettina impostata in maniera, vuoi fare il radical chic, l'intellettuale che sta lì attentino alla cosa, no, perché secondo il diritto quel poliziotto non poteva dare quella manganellata. Poi date qualunque definizione, la ragione, gli altri, quelli che dicono, dico cose, quello che penso, non c'entra sinistra radicale, non c'è, dico Parenzo, quello che penso, Parenzo, poi dopo se le piace guarda sei tanto carino. Mi fai pure sorridere spesso e volentieri, saresti anche un amicone magari conoscendoti di persona, però perché non cambi attività, Parenzo, francamente? Scrivi che attività per lo sport, no, lo sport non capisce un cazzo, interessa. Lo sport non capisce niente, non mi interessa, Parenzo, proprio. Mi dice Cruciani che il tuo problema, secondo me, è uno, non te ne avere a male. Che cos'è? Tanto accanto a Cruciani sì. pure è un gran figlio di buona donna, perché ogni tanto dice delle cose che veramente ci sarebbe da dire, Cruciani, ma che stai a dire? Però tu, forse probabilmente perché senti il peso di Cruciani, della levatura di Cruciani, vorresti metterti in evidenza, però ti puoi mettere in evidenza. Guarda che è più semplice, sai, delle cose, guarda che... sagge. Ma è molto semplice, io dico quello che penso, poi dopo se ti piace, Cruciani, non sei guarda, obbligato sì, a condividere. Parenzo, non sei obbligato da a condividere. 54 anni. Ma non buttarti bisogna giù. Che cresci, ogni tanto rifletti su quello che dici. Perché io dici rifletto su quel che dico e quel che dico lo penso e non fingo, perché quello che dico qua lo grazie, dico grazie casa, di questa amorevole discussione, grazie. Pensano come zanzare. Escono fuori i candidati, è ufficiale la candidatura di Bracconeri con Fratelli d'Italia, caro Parenzo. Il mitico Bracconeri della terza C. Il roscio. Il suo programma? Uscire dall'euro. Arriva, fosse eletto al Parlamento Europeo, le battaglie sarebbero prima uscire dall'euro, avere una moneta nostra che ci dà sovranità, dove se siamo in difficoltà possiamo stampare la moneta. Ho fatto forum, serve la riforma della giustizia. Io ho fatto tanti anni forum e proprio per questo un'altra riforma che farei è la giustizia. Per la legge siamo tutti uguali, ma non è così. Non c'è lo stesso metodo di giudizio per lo stesso reato per tutti. Anzi, qui c'è manca reato. Santi Michele credo che comunque avrebbe valutato in maniera diversa Berlusconi. Santi Michele avrebbe valutato in modo diverso Berlusconi. Bracconeri al Parlamento europeo. Allora, era balenata l'idea al governo di far pagare gli 80 euro che devono essere messi dentro le buste paga con il canone della RAI, cioè con gli evasori del canone RAI, legando anche il canone RAI alla bolletta elettrica, eccetera, eccetera, per recuperare 300 milioni. Per carità, va benissimo recuperare l'evasione, pare che poi il governo abbia fatto marcia indietro. Io dico due cose, il canone va abolito, primo, secondo, la RAI va privatizzata, punto, stop, finito, basta, un programma molto semplice, abolizione del canone, privatizzazione della RAI, anzi prima privatizzazione, almeno una rete pubblica ci vuole, una privatizzazione rete della RAI, privatizzazione della poi RAI, si vede come pubblica c'è in tutti i paesi, privatizzazione e abolizione del canone, via, basta. Questa è la rivoluzione, Renzi, non le chiacchiere sulla RAI. Cosa dici sulla privatizzazione della RAI? Cosa dici? Questa è la rivoluzione che ci aspettiamo, non le piccole cose. Luca, Luca, Genova. Pronto? Dimmi. Senti, buonasera. Senti, io sono a questo punto penso di essere un ex elettore di Forza Italia, perché ho votato per anni in Forza Italia. Adesso mi ritrovo un partito che si allena col partito dei rumeni in Italia, che mettiamo Cecchi Paone in Europa. Adesso siamo. Per anni ce l'hanno menata con la storia che noi appunto siamo contro l'invasione degli immigrati, poi siamo contro il matrimonio gay, tutte queste cose qua. Sì. Io capisco che si può prendere per il culo anche l'elettorato, perché noi siamo italiani, siamo bravissimi a farci prendere però, per il culo. Però? Ma mi sembra che si stia un po' esagerando. Berlusconi probabilmente avrà fatto qualche accordo con Renzi, con Napolitano. Ma che c'entra adesso? Che cos'è che le dà fastidio? Punto... La candidatura di Cecchi Paone le dà fastidio? Ma non mi dà a me, guarda, io ho votato Forza Italia, tra l'altro sono a favore del matrimonio gay, sono a favore di tutto. Ma allora perché... dovrebbe essere a favore di Cecchi Paone, qual è il problema? Io ho capito, Cecchi Paone, a parte che deve essere uno che va, deve andare più o meno, sarebbe andato con tutti probabilmente, chi le ha proprio preso sì, questo, qualcosa. Questo pure è vero secondo me, però comunque. Secondo me è vero, sarebbe andato con tutti, perché non mi sembra che fino a ieri era contro tutti quelli che erano in Forza Italia o nel PDL, stranamente adesso si ritrova lì. Perché vabbè, allora viene che cos'è che qual è il disgusto che prova? Mi spieghi. Ma il disgusto che non si può, che c'è una massa di gente, l'elettorato di Forza Italia, che se lei va a sentire, meno male, sono tutti, io tra l'altro in quella cosa ero in disaccordo, sono un po' anomalo come elettore. Anche sì, di, però non di è che perché candidano Cecchi Paone la gente scappa per altri motivi, se ma scappa no, poi. Scappa per tutto il resto ovviamente, appunto. Anche la storia qua che... Adesso Berlusconi deve stare 4 ore a tenere degli anziani che sono più giovani di lui probabilmente. A proposito, Luca, a proposito, straordinario Stefano Disegni, credo sul Fatto Quotidiano, con Berlusconi che mette le mani sul culo a un anziano. Da stamattina è la quarta volta che ti caghi addosso, Cribbio, dice Berlusconi. L'anziano, mezzo piegato, siamo comunisti, ci siamo purgati apposta. Questa è spettacolare. E dietro Berlusconi c'è un secchiello con due anziani, uno sulla sedia a rotelle e l'altro in piedi, che dice uno trotschista, l'altro Brigate Garibaldi, cioè tutti gli anziani comunisti che si sono purgati apposta per farsi venire il cagotto, e così Berlusconi è costretto a pulire il culo a tutti. In realtà non succederà, perché insomma, non è che pulirà il culo alle persone, poi domani vi spiego perché. Io dico solo che questo programma dovrebbe essere soppresso. Zanzara! Quando sento Parenzo giro su Radio Maria, glielo giuro. Ruggisce tutta la notte. Tu devi stare zitto. Dorme in un tombino. C'è l'aria nel letto che mi graffia tutto. Cosa ti devo... Rocco dalla provincia di Salerno. Intanto segnalo, caro Parenzo, che molto probabilmente è candidata per Forza Italia una signorina che si chiama Ilenia Citino, 27 anni, quasi 28, che è transitata da uomini e donne, è una militante, no per carità non è mica un delitto, è una militante da qualche anno del PDL, adesso di Forza Italia, in una meravigliosa intervista dell'ottobre dell'anno scorso, del 2013, al Fatto Quotidiano, disse disse: mi ha notata Berlusconi quando era un talk show su una TV romana. Poi ha partecipato alla trasmissione della De Filippi e sempre nella stessa intervista dice la signora Ilenia Citino: quelli di Canale 5 hanno le liste degli iscritti al PDL e le tampinano. Ha scritto anche un libro con la prefazione di Berlusconi. Secondo te questa qua è bella oppure una racchia? Così tanto andiamo a indovinare. Adesso, no, no, secondo adesso te, il nome, secondo te, il nome, vado, 90.9% questa sicuramente è una bellissima ragazza, questo non credo che ci sia dubbio alcuno. Ha un senso estetico anche Berlusconi, quindi sì. Come si chiama questa? Ilenia Citino. Citino. Vado su la Google. Vai, andate, andate a controllare. Ilenia Citino. Ilenia... Secondo voi? Secondo voi è di bell'aspetto oppure una mezza racchia? Proviamo a indovinare, no, dai. Beh, no, da queste foto sembra. Ma molto per bene. Molto liberale. Se lo dica a voi tu ed amico, sì. Fatevi cazzi vostri. Insomma, noi non siamo capaci, questo è il punto, caro, non so, dalla caro Antonio, non si senatore Antonio. Dalle foto. Senatore Razzi, non siamo capaci. Sei cresciuta alla scuola di Einaudi, adesso voglio un po' capire. Da quello che mi dicono, la Pascal ha cercato di fare un po' di resistenza, poi tanto per mettere qualche donna in più in lista, non è che questa gente non passerà mai. Ma sì, molto difficilmente riuscirà a diventare parlamentare europeo. Però, sai, bisogna riempire la lista, le liste di donne, eh? Cioè, se c'è questa buffonata qua di mettere le donne in lista per buffonata. Forza. Buffonata. Si scoprono anche persone nuove, no? Nuovi talenti, scusami, dovresti essere. Con chi eravamo? Rocco, provincia di Salerno, sì. Stasera ce l'hanno tutti con te, t'avverto, eh. Tranne alcuni che hanno chiamato difendendoti, però comunque. Rocco. Buonasera, secondo me lei. Vado è a buono, letto lo stesso. È. Secondo te? Ilenia è buona. È buona, anche se anche secondo me è buona, sì. Allora? Comunque volevo fare una domanda a Parenzo. Sì. Secondo, dica, al caro. Posto del poliziotto, lei cosa avrebbe fatto? Quella è una guerriglia, non è una manifestazione. Lei ho detto e ripeto ancora, ho detto, allora, le ripeto ancora una volta. So mio nonno era questore, è stato questore a Cremona. Quindi io sono dalla parte della polizia, tanto sono dalla parte della polizia che ho detto che secondo me il capo della polizia è il primo ad aver individuato un abuso. Io l'ho riportato sbagliando perché ha parlato di un cretino senza Luciani senza... si è messo invece a pontificare. Sbaglia assolutamente perché cioè, vogliamo per forza giustificare calpestatina, calpestata, così e colà. Secondo me ha fatto benissimo, pure se gli ha dato un calcio, perché cosa ci faceva nella guerriglia quella? Perché ma e se magari non c'entrava un compagno nulla? Che stava a terra, non credo che abbia preso una manganellata in testa per senza motivo, no. Se un poliziotto che prende San Pietrini, si vede un cazzotto da una parte, una sprangata dall'altra, la bomba che gli spara a fianco, ma che cazzo deve fare? Quindi? Guardi che sono gli abusi che vengono perseguiti, gli abusi, non chi si comporta caso, per bene. In quel caso, secondo lei... In quel caso, magari dimostrerà lei, di aver fatto tempo, le cose per bene quel poliziotto. Insomma, io voglio vivere... Insomma, fare caro Flaminio, come ti chiami, non mi ricordo e chiedo scusa, perché non ho notato il nome. Rocco, caro Rocco. Caro Rocco, non ti avvicinare troppo al microfono, sennò fa casino, dai. Io voglio vivere in un paese in cui anche la polizia è sottoposta alla legge, tutto qua, fine. Sì, ma questo qua tutti vogliamo questo, nessuno vuole, no, nessuno vuole la macelleria messicana, soffiate. Nessuno vuole e la allora? Macelleria, nessuno allora, vuole le camere allora di tortura, gli stadi di stile allora? Pinochet, nessuno allora? Vuole questo, non credo nemmeno Rocco, il punto è un altro, basta. Molto semplice. Non qui altro si sta punto. Criticando la polizia, alcuni uomini per una manganellata in più, perché non è successo assolutamente nulla e per uno che è passato sopra con i piedi, va benissimo, verrà condannato, eccetera. Mentre vedo puntualmente come sempre, civili è così, sai? Sì, ma vedo la ragazza la facciamo testimonial della pace ora. Sì. La facciamo testimonial della pace, semmai ma che sciocchezza è? Pure un'aula del Parlamento. Ma magari la ragazza non c'entrava nulla con gli scontri, che c'entra? Ma che c'è? Ma come non c'è? Ma smettiamola con questa buffonata. Perché dovete fare delle quando polemiche si carica, quando la polizia carica, se uno si trova in mezzo agli scontri è lì colpevole come quelli carica, che fanno gli scontri. Quella era per terra, quello... se vuoi saperlo. Vabbè. Non c'era alcuna carica attorno c'erano delle persone che non c'erano lì vicino a lei, se hai visto le foto e la ricostruzione. Tant'è che il capo della polizia lo ha detto dopo aver ma visto certo, qualcosa. Ma il capo della polizia è obbligato a dirlo. Io per fortuna non faccio il capo della polizia e mi esprimo liberamente. Ma non sono il capo della polizia. Ma meno male per tutti noi, guarda. Ma meno male per tutti noi. Vabbè. Andrea da Milano. Andrea? Ah, buonasera, Cruciani. Vai, Parenzo. Dimmi. Allora, innanzitutto voglio dirvi che voi due a volte mi fate talmente incavolare che sareste veramente da sberle, però vi ascolto sempre. Per cui, vabbè, la premessa. No, volevo intervenire veramente da indignato. Prima ho sentito... Un attimo. Pronto? Signor Cercacci? Sì. Buonasera, ciao, sono Cruciani, Radio 24. Ti disturbo? In questo momento sì. No, so che... Posso chiederti solo una cosa? Se sei molto arrabbiata sì. Per il fatto che non ti candidano? Prego? Se sei arrabbiata per il fatto che non... Perché circolava la voce... Ma nessuno non mi ha candidato e io non ho mai chiesto di candidarmi, quindi è tutta una palla. No, siccome Bianconi ha scritto... Arrivederci. No, un attimo solo. Una balla mediatica come al solito. Non si può chiedere nemmeno a una persona, a un deputato, se uno è stato candidato o no, una balla mediatica. Ma quale balla mediatica? C'è un esponente del suo stesso partito, signor Bianconi, ha detto fuori la Cercacci e dentro Cecchi Paone, domandandosi ma è cambiata la linea del partito sugli omosessuali, sui froci, cioè, fuori una bella donna, dentro un omosessuale, signor Bianconi, una balla mediatica, tu. Sono tempi duri. Vabbè, saranno pure tempi duri, però. Guarda che Bianconi ci ascolta sempre. Vabbè, ma Bianconi, io lo adoro Bianconi. Camera, ma io lo adoro ti Bianconi. Manda a quel paese. Sì, ma io lo adoro Bianconi, ma cioè, non capisco cosa abbia con noi. Cosa gli abbiamo fatto? Non ho capito. Perché lo pigliamo per il culo ogni tanto? Perché non ho capito. Lui non piglia per il culo la gente? Lui non fa attacchi? Perché lui cosa? Non capisco perché ce l'ha con noi, ma in particolare con te, ma anche con me molto in questo caso. No, ce l'ha pure con per te. La questione. Sì, no, infatti anche con me parecchio. Sulla quando lo abbiamo un po' sbertucciato sulla questione del finanziamento pubblico. Ma ho capito, ma non è mai venuto ospite qui. Cioè, ha sentito perché la trasmissione? Lui era venuto una volta. No, guarda, se tu recuperi l'audio, lui adesso mi ricordo, lui è venuto una volta e noi lo abbiamo sbertucciato, perché lui dice una cosa molto forte sul libro di Rizzo e Stella, se ti ricordi. E su quello noi ingaggiammo con lui una grande battaglia e lui da quella volta si è incazzato tutte le volte che mi vede, me lo ripeto tutte le volte. Sì, ma ho capito, però signor Bianconi è e un grande... ti sta ascoltando. No, ma è un grande lui, combattente, a me mi sta benissimo, cioè io lo adoro perché è un grande combattente. Poi uno non prende mi in giro. Non prendere per il culo, ma non mi fa. Non mi fa più pigliare per il culo da due stronzi come voi. Questo è un virgolettato di Bianco. Sì, lo so. Siamo a Cercacci, sentiva siamo a Cercacci, no? Siamo a Cercacci. And that means I'm gonna go bite, bite, bite, whitey, white, sir. Yes, I'm nature's mosquito. I'm gonna go bite, yes, bite, whitey, white, sir. That's what he even told me to do. And God loved me when he made me the same as he loves you. So I'm nature's little mosquito. Allora Maurizio Crozza e Berlusconi ai servizi sociali. Vabbè, non poteva mancare. Sai che dopo un po' a me Crozza, per carità, è un genio numero uno, però un po' mi annoia perché mi annoia. Giusto che finisca la stagione, perché a un certo punto capisco che siamo saturi di Crozza, però è sempre numero uno, per carità. No, a me diverte sempre moltissimo. Senti. Guardo anche le repliche, guarda. No, ma anch'io. E questi anziani, tra l'altro, non possono nemmeno starsene a riposare tranquilli, che gli arriva sto cagacazzi tra capo e collo a raccontargli barzellette sulla mela cotta che sa di culo. Ma io... Che figata. 4 ore alla settimana dai vecchietti. Se avessi saputo, frodavo di più. Questo è il paese che amo. Lo sapete che ha passato più tempo Ghedini in tribunale a difendermi che io a scontare la pena? Adesso mi faccio fare 2 copertine su chi mentre abbraccio le vecchie cariatidi e la giro a mio favore. Vuoi vedere che se cambio due cateteri vinco le europee? Che figata. Questa è geniale, eh? Ah, questa è geniale. Ma anche perché accadrà così. Non lo so, non credo che vincerà l'europeo. Poi vincere, che vuol dire? Su chi? La battuta che lui fa sulle quattro ore che deve passare lì, quattro ore alla settimana rispetto alla condanna che ha avuto. Beh, questa non è una battuta, perché è la verità, è quello che è successo. Allora, eravamo con Andrea, o sbaglio? Sì. Allora? Buonasera Cruciani. Buonasera. No, io volevo, dimmi. Non sapevo più se ero in linea o no. Allora io volevo. Tu sei sempre in linea, sei sempre in linea. Ok. No, volevo dire che sono indignato a sentire le parole di Cecchi Paone, per il fatto che il mondo cristiano come non insorga a sentire tutte queste scemenze, perché in merito alla legge 40. Chi crede, che poi sia cattolico o evangelico che sia, ma sa benissimo che l'unione, diciamo, un figlio può nascere solo tra l'unione di un uomo e una donna. Vabbè, quello è sicuro. All'interno del matrimonio. Poi ci sono altre tecniche però per far nascere i figli, cioè siamo andati avanti nella vita, capito? Cioè, nell'evoluzione della società siamo andati avanti, cioè non siamo rimasti, che va benissimo anche quello, per carità, perché io ho fatto un figlio in maniera naturale, anche Parenzo ne ha fatti due in maniera naturale, però non è che siccome l'abbiamo fatti così, quelli che non possono, allora niente, finito, chiuso, morti, no, ci sono tecniche. Siamo andati avanti nella storia, per fortuna. Sono d'accordo, però se mi ha ascoltato quando ho detto che dal punto di vista della fede, chi è credente, chi è cattolico. Ma non è vero, io conosco un sacco di gente cattolica, credente, che fa fecondazione assistita, eterologa, è a favore dell'utero in affitto e di altre tecniche. Cattolica, credente. Dopodiché cattolica, non siamo come il professor Antinori. Ragazzi, a proposito, perché non mi fate risentire lo sbrocco di Antinori contro di noi? Mi avete tolto. Chiamalo, lo sbrocco di Antinori. Adesso. A proposito, sì, potremmo chiamarlo effettivamente. Andrea, allora? Quindi bisognerebbe dare voce anche a chi è veramente credente, perché anche un cattolico che si professa credente e legge veramente quello che dice la Bibbia, si rende conto che questo non è possibile. Quindi poi anche l'unione, il poter adottare un bambino, coppie di omosessuali, e questo, ripeto, non è un pregiudizio. Anche perché. Vabbè, ma a lei non piace, a lei non va. La cosa è controversa. Io sono a favore, per esempio, Parenzo è un po' più dubbioso, ma va benissimo. Ma non capisco perché chi è a favore debba essere considerato una sorta di pazzo furioso, uno che vuole distruggere la famiglia, la società. Sono cazzate. No, io non mi permetto di giudicare. No, come non mi cioè, in America, dove in alcuni stati questa cosa è permessa, è una distruzione della società. La società americana è distrutta, dilaniata. Ma non è, ma e non allora? È naturale, non è naturale. Ma chi se ne frega che cosa è naturale e cosa no? Perché vorrei dire, ad esempio, Cecchi Paone, se il padre e la madre Cecchi Paone l'avessero pensata così, non sarebbe mai nato, voglio dire. Ma che vuol dire? Naturale, ma che vuol dire? Non, non è secondo natura, vabbè, Andrea. Mosquito. Aspetta, professore, vai tu, eh? Tanto non risponde, maledetto, stasera. Ma perché maledetto adesso? Non esagerare. Ci dice male. Amedeo da Parma. Sì, sono dimmi. Qua. Dimmi. Buonasera a tutti. Senta Cruciani, è un po' di tempo che ci sto ascoltando questa storia delle forze dell'ordine, delle manifestazioni, ma io dico, ma possibile che nessuno ne parla? Di cosa? Nessuno dice niente. Di la cosa? Sì. È che ormai gli anni sono passati, mandano i ragazzini a fare questo tipo di manifestazioni, a partecipare. Mandano chi? Quelli ci vanno, basta. ci vanno volontariamente, non immagino, non è che vanno mandati da qualcuno. Sì, no, ma ci vanno a fare il servizio, giusto? Ma mandano chi? I poliziotti, dice lei? Parlo dei poliziotti. Ma non mi pare che siano ragazzini quei poliziotti, non mi pare proprio, guardi. Comunque, fammi sentire Domenico da Rimini, dai, Domenico. Ah, bene, ecco, stavo qua che aspettavo. Allora, io ho tutte queste cinture nere del tramezzino, dello spritz, che criticano le forze dell'ordine, li inviterei ad andare in prima linea volontari,